Fumicino faceva un discorso un po' più ampio. No, non faceva un discorso ampio. Dice: appena uno prova a parlare, viene promulgato un editto, che sia bulgaro di ovunque il premier si trovi. Appena uno prova a parlare, è così? Cruciani, abbia pazienza. No, è così, dire... Francesco, è così. No, appena uno prova a parlare, viene cassato, viene cacciato da non so quale posto, da non so quale... Beh, io non voglio riproporre i soliti esempi. No, e ma io sto parlando appena uno prova a parlare, non Biagi, Luttazzi e Santoro. No. Appena chiunque prova a parlare, dice Muccino. Non so se è chiaro. Ma chiunque, è chiaro che... Cioè, Francesco, mi scusi, se avesse detto Biagi, Santoro, Luttazzi sono stati cacciati dalla Rai, uno non poteva dire nulla. Ma se uno dice, siamo tutti costretti al silenzio, mentre parla, appena uno prova a parlare viene promulgato un editto, è una cosa ridicola o non è ridicolo? Io questo voglio capire. Secondo lei è ridicolo oppure ha ragione lui? Ma senti, Cruciani, per me lui era in un contesto quel discorso là, non era la frase se uno prova a parlare viene tacciato. Io conosco, e lo hanno dichiarato loro, tipo un giornalista come Facci che è dovuto andare via dal giornale perché non poteva scrivere quello che voleva, e questo non lo può negare lei. Non è così. Facci non è andato via dal giornale perché non poteva scrivere quello che voleva, semplicemente perché è arrivato un direttore che non gli garbava e ha preferito andare in un altro giornale, punto. No, però se lei ricorda bene, ma cosa adesso non può prendere Facci come esempio della... Beh, Facci è un giornalista, Muccino no, cioè, quindi è anche peggio. Ah, guardi, poi ha sbagliato esempio. Va bene, allora Mentana... Francesco, neanche, ha sbagliato esempio. Va bene, Mentana... Però prendiamoci a Muccino. Muccino fa film, sì. E fa film che fondamentalmente sono film che non vanno a intaccare determinati interessi. Sì, ma noi adesso non stiamo parlando dei film di Muccino. Lui dice, ha già fatto fuori tanta gente, ha cominciato con i giornalisti e ha finito con i giudici. Ma dico, ma... Non so di che parliamo, di che stiamo parlando. No, io lo dico io di cosa stiamo parlando. Al TG1 chi c'è? C'è uno che non dà le notizie. Vabbè, ma lei sta parlando d'altro, non sta parlando di quello che dice Muccino, sta parlando di altre cose. Francesco, comunque, insomma, ma io non sto parlando d'altro. Sì, sta parlando di altre cose, non di quello che ha detto Muccino, non delle stupidaggini che ha detto Muccino. Sta parlando del problema del conflitto di interessi e dunque il problema della partitocrazia, della lottizzazione della Rai, che è un'altra cosa. Mi piace che poi alla fine si riduca tutto a un discorso politico, perché poi alla fine, insomma, io è evidente, se hai capito un po' da quale parte sono schierato, no? No, ma non è questione di schieramento, io non le attribuisco, nessun schieramento, Francesco. Io leggo le frasi per come sono pubblicate, magari non sono vere, ma non sono state smentite. Insomma, quando uno dice non potrò far crescere qui i miei figli perché c'è Berlusconi e tutti siamo costretti al silenzio, è o non è una cosa ridicola? Ma lo ha detto anche Celli. Chi l'ha detto? Ma che c'entra? Ma Celli parlava di un'altra cosa. Celli ha detto che mandare... Ma Celli parlava di un'altra cosa, non di Berlusconi. Fuori, no? Ma non parlava di Berlusconi, non un'altra cosa. Parlava del problema dei giovani che non riescono a... Parlava del problema dell'Italia. Dell'Italia, Berlusconi. Sì, ma non c'entra niente con Berlusconi, non parlava di Berlusconi, abbia pazienza. Cioè, quando si parla di Italia si parla anche di Berlusconi, voglio dire. Secondo lei si parla di Berlusconi, Francesco, sarà malato lei di antiberlusconismo, allora, non lo so. Ma anche Muccino. Sarà ossessionato da Berlusconi lei. Io lo ammetto. Appunto, lo ammetta. Mi intervisco come quella... lo ammetta, lei, allora lo dica, Francesco, io... problema personale. Oh, benissimo, lei lo dica, Francesco, io sono ossessionato da Berlusconi, me lo dice? No, ossessionato no, perché io dormo la notte tranquillamente. Me l'ha appena detto. No, vabbè. È del partito dell'amore, lei? l'amore... Di notte fa l'amore. Io di notte canto, meno male che Silvio c'è, non ti è capito?